24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci, ci siamo anche oggi, cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9, sono le 6 e 33 minuti in questo istante, la nostra Miriam Lucchetti è già lì in redazione pronta e il nostro alpino Peter Bescapè ovviamente è già lì in regia, mi aiuta come sempre ad alzare la nostra saracinesca del bar. Un caffè, se vorrei. Il caffè volentieri a tutti quanti. Caffè per tutti, ovviamente, offre come sempre Nicole Minetti, fresca si sa, non si è ancora capito del suo vitalizio maturato insieme ai consiglieri regionali, chi lo sa, 349-238-6666 per i vostri messaggi, vi annuncio che da oggi c'è una novità, abbiamo una segreteria telefonica, tra poco vi faremo sentire un nuovo strumento per dire la vostra, la segreteria telefonica di 24 mattino, intanto il caffè oggi lo offriamo volentieri, anzi lo offre volentieri Nicole Minetti, a Mario Giordano, direttore di TGCOM 24, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come sta? Ma bene. Ben svegliato, che bello sentire voci, ma sapeva Mario Giordano è uno molto mattiniero, uno di quei direttori molto mattinieri. Saluto anche un graditissimo ritorno, Vincino, direttore del male, condirettore del male. Cosa devo dire? Condirettore insieme a Paolo? Siamo due direttori, quindi il giorno che non c'è l'uno c'è l'altro. Fantastico. Vincino e Giordano, vi voglio far sentire, purtroppo il comunicato ultimo è solo un comunicato scritto, ma l'audio storico è quello di 20 anni e più fa e quindi dall'inizio partiamo e parliamo della coda, ecco. La riconoscete subito la voce, è quell'annuncio storico nel 94. L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature. Vabbè, l'avete riconosciuto. 26 gennaio 1994. Mario Giordano, oggi tutti i giornali non parlano d'altro. Berlusconi, basta, ha gettato la spugna, cosa ha fatto? Sì, Berlusconi ha fatto esattamente un discorso, hai fatto bene a ricordare quel discorso perché sia per importanza, diciamo così, per la piccola storia del nostro paese, sia anche per i toni che usa, richiama esattamente quello. Quando ci è piombato nelle mani ieri, poco prima delle 18, e abbiamo immediatamente dato notizia e si è capito subito che era un passo indietro che apre però uno scenario, sblocca una situazione che non poteva più andare avanti così. Ma si chiude una pagina di storia, che poi si chiude veramente, perché già oggi Vittorio Feltri sul giornale dice state attenti, ma arrivederci, chi lo sa. Prodi è stato più, Romano Prodi, sapete cosa ha detto? Sì, vabbè, voi dovete fare i titoli dei giornali, ma state attenti, mi raccomando, fate con calma perché l'uomo ci ha sorpreso anche in passato più volte, è la fine di una storia, Giordano. Ovviamente trattandosi di Berlusconi le sorprese sono sempre possibili, però io credo che questo sia davvero un passo indietro e una svolta storica, nel senso che era evidente che la situazione che si era creata non gli permetteva più di correre a Premier con la possibilità di successo, e quindi anche per salvaguardare un po' quella storia che hai ricordato facendo sentire quel discorso, non si poteva finire, quella era l'altra opzione, no? Fino a pochi giorni fa, l'opzione di rifondare un piccolo partito, di lasciare il PDL che andasse per la sua strada e di fondare una piccola lista. Allora l'uomo che comunque nel bene e nel male, comunque uno lo pensi, è stato il leader dell'area dei moderati, ha governato il paese, che fosse finito a capo del partito delle Amazzoni della Biancofiore poco alto sarebbe stato, a mio parere, e credo sì, poi il nome, le Amazzoni, cioè l'ultimo che aveva le Amazzoni ha fatto anche una brutta fine, brutta, voglio brutta, dire, brutta, ma almeno brutta. Cambiate il nome, le Amazzoni, Vincino, le Amazzoni, le Amazzoni azzurre, Berlusconi, si sono chiamate così, cioè. No, le Amazzoni è terribile, no, però oggi bisogna dire che è un gran bel giorno, perché due cose insieme: niente più carceri per i giornalisti e niente più Berlusconi per tutti gli altri. Praticamente l'Italia ha fatto pure la Pravda un'elezione straordinaria su questa cosa qua. Però vi ha fregato, perché il male che esce oggi, questa notizia non ce l'avete. Questa notizia non ce l'abbiamo. Ma ve li immaginate le vignette di Vincino e Vauro su. Vabbè, però sul foglio lei l'ha fatta la vignetta. No, oggi. No, ma sul foglio l'ho fatta, sul Corriere l'ho fatta, non è che ora cerchiamo di recuperare, no? Chiaramente i settimanali chiudono, si fanno due giorni prima, insomma, della... finiscono due giorni prima, ecco qua. No, l'ha fatta apposta, per evitare la prima pagina. Che titolo farebbe il male? Riapriamo, facciamo una ribattuta di prima pagina, oggi. Che titolo farebbe il male? Non lo so, il male vedrebbe forse, probabilmente, il vaccino Novartis che gli ha dato Alfano, no, che ha fatto il suo effetto. O se no, l'altra cosa, no, questa più che il male, questa dovrebbe essere sul Corriere, questa qua, che praticamente lui per continuare avrebbe dovuto ricomprarsi 330 case di tutti i suoi deputati, 330 orribili case, e questo era troppo anche per lui. Era troppo. Vabbè, era Mario, troppo. Mario Giordano adesso ovviamente si sbizzarriranno, no? Vincino è già molto caldo. Oggi sapete cosa ha messo Vauro in prima pagina invece del Fatto come vignetta? Berlusconi, che è ritratto in vestaglia, non si ricandida più, rimango a fianco dei più giovani, meglio se minorenni. Giordano, qua adesso vabbè, ma questo insomma fa parte della cosa che ha accompagnato tutto, c'era anche prima, anzi forse credo che passata un po' di bufera di questi giorni sarà anche un po' di meno, cioè che ci saranno, spero e mi auguro, tante altre cose da raccontare, perché insomma tutto questo l'abbiamo già visto, fatto, e quindi sapeva un po' di vecchio, già visto. Spero che si possa aprire una pagina nuova, come si è aperta anche a sinistra nel PD, con dei personaggi nuovi. Quello che c'è da augurarsi davvero è che sia una gara vera, con candidature vere, non i finti gazebo con la parata ai seggi, ma se sarà una cosa vera, con sfide vere, eccetera. Io spero che anche per i vignettisti come Vincino, come Vauro, come gli altri, si possa aprire anche qualche soggetto nuovo, perché insomma la vena pare anche un po' esaurita. Sì, basta, non se ne può più. Vincino, vignette su Berlusconi, basta, uno quante ne può fare? Dire, assolutamente, ma io, la satira ha fatto un monumento a Berlusconi. Sì. Per 20 anni l'ha messo da tutte le parti. Infatti, era proprio, siete disperati adesso. Mia figlia, piccola, a 4 anni, a 3 anni, perché Berlusconi è entrato in campo che la mia figlia piccola aveva 3 anni, pensava che Berlusconi fosse un pupazzetto inventato da me per farla addormentare la sera. Questo pensava. E poi ha avuto una delusione vedere che questa... è così, no? C'è stato proprio uno, la satira ha fatto per lui tantissimo, no? E difatti l'ha fatto leggere un sacco di volte, e lui, devo dire che in realtà come i disegnatori non l'ha massacrati tanto, no? Andava più sulla satira quella televisiva o altro, no? Però l'ha capito lui questa cosa qua, molto. Vi ricordate quando uscirono i manifesti taroccati? Sì, come no, e come no. Mi chiamarono dicendo, sai, vuole fare un premio, no, al miglior manifesto taroccato, e veniva da lui questa richiesta qua. Assolutamente no, ma come dire, era perché lui aveva capito la forza del manifesto taroccato su di lui che poteva avere. Comunque, no? Insomma, che si voglia o non si voglia, si parla sempre di Berlusconi da 20 anni. Guardate i titoli dei giornali di oggi, ma oggi è inevitabile. Berlusconi lascia e lancia le primarie del PDL per il Corriere, il Giornale arrivederci, il Fatto Quotidiano Berlusconi scappa, Libero sotto a chi tocca, Repubblica la resa di Berlusconi non corro più, La Stampa al passo indietro di Berlusconi, Vabbè, insomma, la vera cosa però sono le primarie, effettivamente, Giordano, che siano vere o no, da questo punto di vista bisogna dire al centro-sinistra sono un bel po' più avanti, insomma, le hanno già lanciate, le hanno già fatte, è una rincorsa al centro-sinistra queste primarie, saranno più raffazzonate quelle di centrodestra oppure anche il centrodestra in Italia è pronto a questo passo all'americana? Non lo so, questa è la cosa bella, appunto, un po' nuova da vedere, perché il centro-sinistra, prima di arrivare alle primarie vere come queste, in cui c'è una vera corsa e anche bella da raccontare, è passato attraverso i plebisciti, le investiture popolari ai seggi, in cui tutti stavano in coda per designare un vincitore che già si sapeva, e quindi bisogna vedere se questa esperienza fatta da altri serve al centrodestra per arrivare a subito il 16 dicembre, se davvero sarà il 16 dicembre, con primarie vere, o se invece bisognerà passare attraverso una fase anche qua di studio. Nel caso però sarebbe il male per il PDL stesso, per il centrodestra stesso, perché questa mossa di Berlusconi ha un senso, avrà un valore se consentirà ai futuri candidati di misurarsi davvero in quello che forse è mancato fin dall'inizio, cioè PDL, ricordiamoci, è nato senza un vero congresso, senza l'esperienza di partito di plastica, esatto. No? È un partito in cui tutti i militanti sono arrivati per scelta, per cooptazione, non attraverso le battaglie che nel bene o nel male formano la politica, cioè nelle battaglie quotidiane, dei congressi, dei consigli, dei consigli comunali e provinciali, crescendo via via. Ecco, questo, se permetterà di fare questo bagno di confronto e di democrazia, sarà un bene per il PDL. Se non lo fanno, e sarà un'occasione sprecata. Vincino, ma Berlusconi che farà adesso? Se è proprio a fianco ai giovani, lancia i giovani, cioè, c'è un qualcosa che non mi convince in tutto questo. Cioè, secondo me sta studiando qualcosa. Cioè, ha preso tempo praticamente. No, non lo so. No, ma bisogna avere anche una cosa, bisogna avere se tra un mese i primi interlocutori, cioè i primi due partiti, cioè chi saranno i primi due partiti, ecco, no? Da un lato e più dall'altro sarà Grillo il secondo partito, sarà qualche altra cosa inventata o sarà questo centrodestra che si rialzerà da questa storia qua, e anche questo è bello, perché se non sarà il secondo partito il centrodestra, e allora là le primarie interessanti saranno quelle là da all'interno di quelle altre storie. Questo stiamo a vedere. Intanto, dopo le informazioni sul traffico, certo c'è qualcuno che chissà cosa dirà. Stasera torna in TV, gongolerà, ha detto già di Berlusconi, non ne sento la mancanza. Avete capito? Stiamo parlando di Michele Santoro che torna stasera. Allora rubano noi. Io mi cazzo. Ti buttiamo fuori a calci. Io ammazzerei. Fidate che prima o poi qualcuno, invece di incendiarsi e darsi fuoco, arrampicarsi sul cupolone, prima o poi qualcuno la schioppettata gli dà. La schioppettata! Questo è uno dei promo che sono passati. Qualcuno prima o poi una schioppettata gli dà. Ovviamente parla dei politici, questo cittadino, nel promo di Santoro. Ma come una schioppettata? Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Sei tipo Grande Fratello, tipo Grande Fratello, com'è? 4602 4652 4492. È già attiva e potete chiamare. È una segreteria telefonica, non pensate di intervenire in diretta, dite quello che volete, quello che volete. Allora, la schioppettata la vogliamo risentire un attimo, la schioppettata, perché il cittadino che nel promo di Santoro dice gli tirerei una prima o poi una schioppettata, qualcuno gli attira questi. Cazzo. Ti buttiamo fuori a calci. Io ammazzerei. Fidate che prima o poi qualcuno, invece di incendiarsi e darsi fuoco, arrampicarsi sul cupolone, prima o poi qualcuno una schioppettata gli dà. Eccolo lì. Allora, Mario Giordano è uno che con la casta non è mai stato tenero. Ricordo Spudorati, l'ultimo libro, Sanguisughe, avevi scritto prima. Ma una schioppettata, cioè, ma ci rendiamo conto? No, ma per carità, quando tu metti un microfono alla gente, poi la gente dice quello, ma va bene tutto così? Gli tiriamo una schioppettata prima o poi? Guarda, allora, bisogna, il clima fra la gente è questo, quindi bisogna anche rendersi conto, altrimenti non si capiscono neanche i fenomeni del paese, non si capisce quello che succede, che succederà. Se non si, io trovo che per troppo tempo mi sono trovato di fronte anch'io nei vari dibattiti, con persone che continuano a dire la colpa è vostra che raccontate le cose che non vanno, e nel frattempo continuavano a dare i soldi a Fiorito, che li spendeva ostriche e champagne, questa primavera, ancora a luglio, ancora adesso che continuiamo a pagare i consiglieri della Regione Lazio che da oltre un mese non fanno niente, continuano a prendere non solo lo stipendio ma anche i soldi per la presenza in aula e i rimborsi chilometrici per andare in aula stando a casa. Quindi io trovo che più scandaloso per certi versi che la rabbia della gente, e trovo più scandaloso che si continui a prendere per i fondelli la gente. Detto questo, è vero che se quello spot lì l'avesse fatto, immaginiamo, un bel Pietro, un Feltri, sarebbe venuto giù il mondo, l'ha fatto Santoro, c'è stata una minima parte di polemica. Poca critica. Ma sì, perché insomma c'è sempre uno. Detto questo, bentornato Santoro, io ho sempre detto, da sempre continua a dire che Santoro va in onda, deve andare in onda, quando va in onda per tutti quelli che amano questo mestiere ma è un grandissimo giornalista, ma certo. Vincino, su questo è un grandissimo giornalista, non c'è dubbio, però questa cosa era schioppettata. Ma poi lo schioppo è una cosa tenera, così Vincino, attenzione, lo schioppo, ma quello gli ha detto anche un fucile, è uno schioppo, ma quello l'ha detto anche io li ammazzerei tutti, gli ha detto un altro. Un altro. Siamo insieme, quello che l'ammazzerebbe è quello dello schioppo. Ah, vabbè, sono due cose separate. Lo schioppo è tenero. La schioppettata. La schioppettata. Io preferirei non averla oggi, una schioppettata. Una mitragliata. No, no, vabbè, ma Vincino, va bene così, bene che torna Santoro, c'è anche Vauro, l'altro direttore, c'è Vauro. Torna Santoro, stamattina c'è il male in tutte le edicole, due mali anzi, c'è il male con quello normale settimanale e poi c'è un male missionario per salvare il PD. Guarda, noi in realtà un male missionario. Su 48 pagine, 4 vignette a pagina, qui 170 vignette, non ce n'è una su Berlusconi. Incredibile. Incredibile, siete avanti, cioè avete già capito, avete già svoltato voi la vostra. Siamo avanti, sì. Poi qualche mese, avanti. No, Qual è il titolo del male di oggi? Allora, il titolo del male, uno è salva il PD, no, perché ci sono tutti questi qua, tutti in Africa sono, e c'è Giobbe Covatta che li va a trovare uno per uno. Ah, cioè sì, Lema, Bindi, Veltroni che è in Africa. Tutti in Africa. Tutti in Africa. L'altro è quello là, ergastolo per il mago Telma dal Tribunale dell'Aquila, perché non aveva mai azzeccato una previsione. Vabbè, sì, ci riporta a un qualcosa su cui si ride, non si dovrebbe. Ma con un tribunale come quello dell'Aquila. Sì. E come tutti, ma perché non gli portiamo Berlusconi là? Berlusconi. No, io invece qua ho un sogno di portare prima o poi ai nostri microfoni Ciriaco De Mita, che è pimpantissimo. Vi voglio far sentire, è diventato un ricordo della gioventù, no, ma è vero. Giordano andava in bicicletta rincorrendo. Giordano, vi voglio far ascoltare quello che da noi è diventato un tormentone, quando la nostra Elisabetta Fusconi lo chiamò per chiedergli della scorta, no? La famosa, anzi quella che lui chiama la tutela, non ha la scorta, la tutela, quando lo beccarono lì in un paesino nell'Avellinese che non l'hanno fatto entrare, allora ha messo sotto procedimento disciplinare una vigilessa che ha fermato la scorta di De Mita. Quando Fusconi gli ha detto ma perché lei ha la scorta, ecco, De Mita concluse così la telefonata. Ne parla come se fosse il pubblico ministero, questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Giordano, finì così. Questa era la sagra, tra l'altro mi pare che fosse, vado a memoria, la sagra della polpetta. La sagra della polpetta di un comune. Però Fusconi che faceva domande, lei parla con un tono da pubblico ministero, questo gli ha detto, è che è sgradevole. Questo però

una politica che sta cercando di capire se riesce a candidarsi anche lei. Laura Puppato, che saluto, buongiorno e benvenuta. Allora, lei è un consigliere regionale del Veneto che ha detto: io mi voglio candidare alle primarie, però il tempo sta scadendo perché c'è una regola per la quale deve raccogliere quante firme? 20.000? Sono 20.000, sì, per almeno, in almeno 10 regioni italiane, con un plafond di 2.000 come massimo per regione, quindi diciamo che un doppio salto mortale. Cioè, diciamo, raccogliere 2.000 in Veneto non è stato un problema, no, per lei. Non è stato un problema. Ma deve raccoglierne 20.000 e la data ultima è oggi, credo. Oggi è alle ore 20, per cui facciamo anche un ultimo appello, perché appunto i dati che abbiamo, di cui siamo in possesso e che abbiamo recuperato nottetempo un po' in tutta Italia, ed è veramente una situazione anche dal punto di vista, diciamo, dell'attivismo, del volontariato molto molto bella. Però mancano ancora sicuramente delle firme. Quante più o meno, secondo lei? Gli ultimi dati ci parlano di circa 2.000 firme, quindi praticamente. 2.000 firme che possono arrivare come? Anche via fax? Allora, possono arrivare anche via fax. Diamo i numeri 0423-601-994. Naturalmente devono essere anticipate via fax, perché questo ci è stato concesso, ma in realtà fisicamente, diciamo, dovremo poi avere il modulo per sabato mattina, quindi andrebbero spediti i moduli comunque in raccomandata a un giorno, diciamo. Oppure bisogna trovare il sistema. Comunque anticipatevi a fax. Faccio anche un appello, anch'io come Radio 24, per la democrazia, non è che io stia facendo un endorsement per Laura Puppato. Comunque 0423-601-994 è il numero di fax, per vedere se lei confida di farcela queste. A questo punto dovremmo esserci, consideri che manca il numero complessivo di alcune regioni, per cui siamo andati ad intuire in relazione alle informazioni che avevamo rispetto ai circoli e ai comitati. Quindi voglio dire, questa gara titanica, perché è stato fatto tutto in un tempo brevissimo, no? In poco più di 5 giorni abbiamo dovuto attivarci, mandare i moduli e chiedere i banchetti e mettere a per raccogliere queste 20.000 firme. E questo, insomma, obiettivamente è un risultato davvero molto importante, per cui sarebbe veramente un peccato che poi per pochissimo, come dire, non fosse possibile presentare. Che poi, peraltro, per lei c'è stato un endorsement anche di personaggi molto illusi, intellettuali. Spesso si è detto la vipperia gauchista, no? Si è un po' spesa per Laura Puppato. Beh, diciamo che c'è una cosiddetta intelligenza, insomma, io la chiamo un po' così, no? Che poi sono uomini di cultura, di spettacolo, di giornalismo, eccetera. Uomini e donne, molte donne, devo dire anche. In realtà si sono resi conto di una cosa, che l'informazione in Italia è spesso superficiale e affonda quasi esclusivamente su polemica o cronachismo, oppure fatti così piuttosto eclatanti e che mettano in luce appunto alcuni particolari, ma è molto meno frequente che invece ci si occupi della vera informazione, che è appunto quella che dovrebbe portare all'evidenza di un approfondimento dei temi, di una capacità di dare un... Sì, per ora ci sono delle primarie un po' rissose. Senta, ma le chiedo questo, questa regola delle 20.000 firme... noi non vogliamo questo. Questa regola delle 20.000 firme, lei la contesta? Perché lei ha chiesto anche una proroga che non le hanno concesso al Partito Democratico. Esatto. È una regola sbagliata, secondo lei? È una regola vessatoria, perché è indiscutibile, no? Tutta Italia, tutto in originale, tutto autenticato in un arco di tempo, in un lasso di tempo così breve che non hai la possibilità di verifica, perché un solo fine settimana evidentemente ti mette nella condizione di non poter sapere che cosa, per esempio, avevi previsto, che ne so, in Basilicata, e che cosa hai effettivamente raccolto, e quindi non c'è una possibilità di recall, no? Di richiamo e di insomma, e di copertura dei nominativi esistenti. C'è proprio un problema, un fattore temporale, insomma, il dato tempo non è un dato ininfluente. Sì, raccogliere tante firme in così poco tempo non è facile. Senta, però molti ascoltatori potranno dire: ma noi seguiamo le primarie del PD, ci interessano, Renzi lo conosciamo, Bersani, ma Laura Puppato chi è? Cioè, perché dovremmo votare per Laura Puppato? Beh, allora intanto cominciamo a dire che, al di là del fatto che oggi sono capogruppo in Regione del Veneto per il Partito Democratico, sono stata 9 anni sindaco di una città che è diventata per molti aspetti una città di eccellenza in questo paese, perché insomma stata nominata come città 5 stelle dal primo Grillo ed è stata effettivamente, come dire, Montebellune. Sì, Montebellune, che insomma è stata una delle 9 città italiane per Kyoto, quindi ha applicato le buone norme dal punto di vista ambientale, è riuscita a diventare riferimento per le politiche familiari nazionali, diventare riferimento per le politiche nazionali dei giovani, riferite ai giovani, giovanili. Quindi c'è stata un'esperienza, diciamo, di tipo politico-amministrativo decisamente... Quindi, insomma, per me parla la mia storia politica. Le chiedo questo. E poi sono presidente del Forum Ambiente Nazionale del Partito Democratico, quindi diciamo che la mia è una candidatura... No, dice questo, la sua carriera politica parla così, però le chiedo, lei è più, non dovesse farcela, io le auguro di sì, così abbiamo una sfida, ci sarà ancora più ampia, lei è più renziano o bersaniano? Cioè dovesse votare? Non è che non voglio rispondere, è che non posso rispondere, nel senso che se io avessi... Perché non può rispondere? Avuto, ne dico subito, se io avessi, come dire, indicato un candidato avrei semplicemente appoggiato, no? Credo che ci sia proprio un vuoto politico in questo caso nel Partito Democratico e anche nel centro-sinistra. In questa stagione, per esempio, i temi di carattere di genere, di giovani e soprattutto quelli di carattere ambientale non vengono sostanzialmente mai accreditati come temi fondamentali per, da una parte, ricostruire il paese e dall'altra offrire a questa società. Cioè sta dicendo che né Renzi né Bersani vanno bene, sta dicendo. Io sto dicendo che c'è uno spazio enorme che non viene coperto da nessuno dei due e che mi pare invece rappresenti un, diciamo, pure un'esigenza per questo presente e questo futuro. E quindi, però, dovesse capitare che lei non dovesse raggiungere le firme, lei andrebbe a votare, credo, alle primarie, sì. Certamente. In quel caso, allora glielo chiedo, per chi voterebbe? Ci pensiamo il 24 novembre, no? Cioè, ci pensiamo intanto se non dovesse raccogliere figli. Ma intanto chiediamo alla gente che, secondo me, è un atto di democrazia molto importante ed è assurdo che in questo paese, tra l'altro, mai si coniughi nulla al femminile, oltretutto. C'è anche uno sguardo di genere, no? Se mi permette, non per essere particolarmente femminista, che non lo sono mai stata, ma proprio per riuscire a dire che in fondo se siamo arrivati a questo livello forse qualche responsabilità chi ci ha governato, che era appunto sistematicamente uomo, forse ce l'aveva, no? E ci vorrebbe una donna, guardare al futuro, ma non lo dico io, no? Lo dicono autorevoli esponenti del mondo della cultura e della scienza. Voglio dire che probabilmente c'è bisogno di uno sguardo un po' più esteso dell'immediato, ecco, forse a forza di litigare e di guardare all'oggi ci stiamo dimenticando che dobbiamo costruire il futuro attraverso una politica buona. Un'ultima cosa è da centrosinistra e da colei che spera di far parte di questo gioco delle primarie, come vede Berlusconi che a destra dice faccio un passo indietro e ci facciano le primarie anche del PDL? Credo che siamo riusciti a contagiare in positivo anche quell'area politica e quindi questo mi fa solo piacere. Mi fa piacere anche se è molto tardivo, insomma, nel senso che chi ha fallito deve andare a casa, questa è la mia logica e peraltro è una logica applicabile indifferentemente a chiunque. Nel caso di Berlusconi è obiettivamente un fallimento devastante quello che lui ha prodotto nel paese, anche in termini morali. Quindi, se vogliamo, la sua uscita di scena non può che rallegrarci. Il termine rottamazione le piace? No, perché vuol dire mandare tutti ai campi di recupero. Invece non è così, non è che basta cambiare le persone perché le persone che, come dire, automaticamente le cose si migliorino. Insomma, da questo punto di vista Orwell con La fattoria degli animali, no? Quando racconta la storia di quando si sono ribellati appunto i cavalli, ma poi alla fine sono arrivati i maiali, non è che la cosa sia di per sé riuscita al 100%. Il problema è un altro, che noi dobbiamo garantire appunto quella politica buona di cui le parlavo prima, che ha a che fare molto con la riduzione di tutti, no, la cancellazione di tutti i privilegi, la sobrietà, ma applicata però, non solo dichiarata, perché anche in queste primarie, come dire, il fatto che io sia così outsider è anche per scelta, perché voglio dimostrare che c'è anche la possibilità di fare politica in modo un po' spendendo con i toni un po' più bassi. Non spendendo patrimoni, non mettendosi nella condizione di essere condizionati da chi quei patrimoni te li offre e soprattutto mettendo in piedi appunto soltanto volontariato e quindi quella passione civile che esiste, che è capace di essere smossa. Quindi diciamo anche che appunto da questo punto di vista non basta rottamare, forse neanche serve capire chi sono le persone che possono effettivamente godere della fiducia dei cittadini e secondo me metterle anche nella condizione di poter essere monitorate, perché le deleghe in bianco non si danno a nessuno. Intanto ovviamente in bocca al lupo, staremo a vedere, è questione di ore, di giorni, per le raccolte di firme. In bocca al lupo a Laura Puppato, che è del Partito Democratico, come detto, è consigliere regionale del Veneto, è responsabile del partito in Veneto e vuole candidarsi alle primarie. Mancano circa 2.000 firme, pare, per arrivare a quelle 20.000, solo che il termine ultimo è oggi. Ce la farà? Lo scopriremo domani o nei prossimi giorni. Intanto noi tra poco parleremo di Sicilia. 800240024, lì si vota. E lì, fa sapere ieri Emanuele Lauria su Repubblica, ci sono circa 32 indagati a vario titolo, anche dei condannati in via definitiva. Ne avremo qualcuno ospite, cioè persone che hanno problemi con la giustizia, si candidano. Avremo anche invece un esponente del Movimento 5 Stelle. Siamo qua allora alle 8:34 minuti, vogliamo parlare del voto in Sicilia. Ieri Emanuele Lauria su Repubblica scriveva, insomma, la carica delle liste sporche. Sono circa 32 all'ultima conta i candidati alle regionali, si vota domenica, che hanno problemi a vario titolo con la giustizia. Chi indagato, per carità, sarà poi assolto, siamo sicuri di tutto questo. C'è chi ha delle condanne in primo grado, c'è chi ha delle condanne in passato definitivo, c'è chi è anche stato in carcere per un po' di tempo e si candida. Comunque vogliamo parlare di questo. Intanto voglio salutare, sono tre gli ospiti, quindi pregherò tutti di essere veramente sintetici. Giovanni Arena, lo saluto, è un deputato attualmente in carica che si ricandida. Buongiorno Giuseppe Arena. Giuseppe Arena si candida per che partito o che coalizione? Partito dei siciliani. Saluto invece un esponente candidata nel collegio di Caltanissetta per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, Valentina Botta. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Tra poco ci sarà, credo, anche con noi Cateno De Luca, che è sindaco di Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e che in passato è stato anche in carcere appunto qualche giorno. Giuseppe Arena, io partirei da lei perché lei, insomma, è stato anche assessore, credo, alla Giunta Scapagnini. Vice sindaco. E ha avuto dei problemi giudiziari. Qual è stata la sua condanna per falso in bilancio? Guardi, non è falso in bilancio, ma è falso ideologico. Mi date falso l'occasione ideologico. Per la prima volta, sì, in questa campagna elettorale, dove sono stato ingiustamente demonizzato, di dire molto velocemente che io non so se voi sapete cos'è un atto deliberativo o un conto consuntivo. Io, assieme ad altre 13 persone, ci siamo solo limitati, cosa che rifarei altre 100 volte, a esprimere un parere favorevole su un conto consuntivo che recava i pareri di regolarità tecnica e contabile, quindi proveniva dagli uffici finanziari. Il conto consuntivo non è altro che una complicata operazione dare-avere algebrica che viene sotto la responsabilità del dirigente degli uffici finanziari sviluppata durante mesi e mesi di complessa attività. Poi passa in giunta, la giunta non è altro che l'anello di congiunzione tra gli uffici finanziari e il Consiglio Comunale. Arriva in giunta, c'erano i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevole, quindi c'era sostanzialmente la conferma che l'operazione era assolutamente regolare. C'era anche il parere dei revisori dei conti. Vabbè, però questo, diciamo, è la sua, mi perdoni, sorta di arringa difensiva. No, però non è una arringa difensiva, questa è la fotografia di quello che è successo. Dico anche che poi quest'atto deliberativo è passato in Consiglio Comunale ed è stato approvato e votato, quindi reso esecutivo dal Consiglio Comunale. Quindi non si tratta di falso in bilancio, è un'improprietà. Falso ideologico. Primo grado è la sentenza? Primo grado? Assolutamente sì, non solo in primo grado. Il Consiglio Comunale, che poi lo ha votato, non è stato chiamato in causa. I revisori dei conti, che hanno approvato con parere favorevole, non sono stati chiamati in causa. Noi, con una sentenza che non ha precedenti nella storia della giurisprudenza penale italiana, e con una sentenza palesemente abnorme dal punto di vista del risultato, siamo stati condannati. Però vabbè, per il momento si fermi qui, questa è la vicenda giudiziaria. Le voglio presentare anche, ecco, Cateno De Luca, che ci ha raggiunto. Buongiorno De Luca. Buongiorno. Lei è candidato invece governatore per Rivoluzione Siciliana. Lei è stata anche in carcere 15 giorni, poi no, sono stata agli arresti domiciliari, sostanzialmente la stessa cosa, ma sì, beh, certo, la fa. Sì, diciamo, arrestata agli arresti domiciliari. Tra l'altro scateno, ho letto dei suoi manifesti, scateno De Luca. Cioè, ma io siccome sono stato sempre scatenato da quando faccio il parlamentare, qua in Sicilia poi la mafia uccide con tante forme, siccome le mafie sono tante in Sicilia, ci difendiamo comunque, siamo qua all'impiego. Però, però ha un'altra vicenda, ieri è stata, se non altro, se non sbaglio, la prima udienza per un'altra vicenda penale, quale? No, sempre la stessa. Ah, sempre la stessa. Cioè, è stata la prima udienza tecnica con rinvio ora per iniziare realmente il processo a fine marzo 2013 con 250 testimoni, per farle capire, per fatti risalenti dal 2005 al 2006, presunti fatti, dei quali presunti già sono di fatto in prescrizione. Questo per chiarire anche di che cosa stiamo parlando. Lei quando era sindaco, cos'è, tentata concussione, falso in atto pubblico? Tentata concussione, abuso d'ufficio. Senta, ma è normale avere queste liste con problemi a vario titolo di persone indagate? Guardi, io sono stato chiaro dall'inizio, c'è una norma, c'è la legge che stabilisce chi è candidabile e chi non è candidabile. Siccome ormai siamo diventati tutti stronzi perché ripassa la moda del giustizialismo rispetto alle norme, allora si cambiano le norme e le norme stabiliranno che chi è presuntivamente colpevole e ha un procedimento in corso neanche si può candidare, perché noi ci siamo rotte le scatole anche di questa situazione e rispetto anche a situazioni non ho mai rubato, non ho avuto mai niente a che fare con la mafia, cioè sono vicende che poi col tempo cadono da sole e magari si pretende che nel frattempo uno rimanga fermo 6, 7, 8 anni, quanto dura un cazzo di processo in Italia, e questo ovviamente non è giustizia. Ecco, questo per dire anche lo scateno De Luca, avete capito perché anche il linguaggio scateno De Luca è incazzato perché ha fatto abbastanza, però sa anche molti cittadini che mi arresto mi è stato preannunciato allora dal presidente Lombardo col quale mi sono scontrato definitivamente, quindi è ovvio che sono scatenato e incazzato. Che vuol dire? Cioè che Lombardo sapeva già che l'avrebbe... Quando ci siamo litigati definitivamente, buon Lombardo mi ha chiamato, lui non è... Io non lo so se è mafioso e non me ne frega niente, questo lo accerterà la magistratura, ma chi agisce con metodi politico-mafiosi, io l'assicuro, in Sicilia lo sanno tutti. Ah, e meno però male, oggi andremo a dargli il cognato finale e se ne vada a fanculo una volta per tutte. Lui e i suoi compagni. Vabbè, insomma, questo è scateno De Luca e siamo in diretta, De Luca, glielo dico, no? Perché sappia la situazione che stiamo avendo in Sicilia. Vabbè. Mafie che ci sono in Sicilia, che lo sappia l'intera Italia. No, ma è chiaro. Questo avete capito. Poi quando si dicono Cateno De Luca e Giuseppe Arena, voti, tutti i voti portati al Movimento 5 Stelle, ecco, c'è Valentina Botta che vi sta ascoltando, come vedete, del Movimento 5 Stelle. Che le devo dire, Valentina Botta? Sono tutti i voti che arrivano a voi leggere di queste storie e di queste liste sporche o non pulite che ci sono? Io guardi, intanto le partecipo che sono basita perché sentire che bisogna cambiare le leggi per fare in modo che questi procedimenti vadano in qualche maniera prescritti o che comunque cadano in prescrizione è l'ennesima manifestazione di un'intenzione di fare delle leggi ad persona. A me mi dispiace che una persona che si stia candidando alla presidenza della regione possa pensare o dire delle cose di questo genere, però chiaramente no, siamo in democrazia, quindi ciascuno è libero di dire. Perché il bello è questo, c'è la campagna elettorale, votare. Capisco infatti perfettamente, insomma la mia intelligenza mi guida come un faro su questo, però dobbiamo anche guidare come un faro la popolazione, la cittadinanza. Noi siamo un'isola che ha pianto i suoi morti per le strade, per mancanza di legalità e per mafia, ricordiamoci di Falcone e Borsellino, ricordiamoci di altri. Come politici, come rappresentanti dei cittadini, come portavoce, anzi come diciamo noi, come portaforce, utilizzando un termine abusato dei cittadini, noi dobbiamo essere l'esempio della legalità. Io per candidarmi ho dovuto fare una trafila, giustamente in tribunale, il casellario giudiziale, l'iscrizione al registro degli indagati, il registro dei carichi pendenti, io sono pulita. Sì, però Botta, c'è Cateno De Luca dice, io ho, lo dice ovviamente a modo suo come sentiamo, ma dice io ho un procedimento in primo grado che poi cadrà. Giuseppe Arena anche per altri motivi dice io sono sicuro è un falso, è una vicenda incredibile. Quando cade ti ricandidi. Una persona che fa? È impegnata a dover gestire dei processi, no, assolutamente. Una persona che è impegnata a gestire dei processi non può candidarsi né come presidente, né tantomeno, e lo stiamo vedendo a livello nazionale quello che è successo, né tantomeno come candidato all'ARS, perché è troppo impegnato, io credo, a dover gestire questioni di carattere giudiziario. Vediamo, ma questa è la posizione, è la posizione molto intransigente del Movimento 5 Stelle. Vorrei Arena, e poi torno da De Luca, Arena, su questo. questo. Valentina Botta dice no, lei ha a che fare con un processo, poi potrà dire scandaloso, gestisca il suo processo e poi quando avrà finito tutto, avrà chiarito tutte le sue pendenze giudiziarie, si può dare, si può candidare e può fare politica. Arena. Guardi, io non ho nessuna tutte pendenze giudiziarie, che è il plurale. Io da 30 anni sono stato consigliere comunale, da ragazzino, 20 anni, sono stato vice sindaco, sono incappato in una vicenda assolutamente incredibile dal punto di vista, ripeto, giudiziario e penalistico. Sì. Sono una persona onesta, avere votato un atto deliberativo coi pareri favorevoli è una cosa incredibile che poi ti porti a subire non solo quello che sto subendo dal punto di vista personale e umano, perché io non auguro a nessuno di voi di essere vice sindaco di una giunta, di votare dei conti consuntivi coi pareri favorevoli, quindi ti assicurano che tutto va bene, sì, e poi trovarsi inguaiato. Siccome ritengo che questo sia una gravissima ingiustizia che si subisce, non penso di poter arrestare 30 anni di specchiato, trasparente, appassionato impegno per la mia città e per la mia Ma allora terra. Scusi, cosa sono, pazzi quelli del Movimento 5 Stelle che chiedono pulizia, che chiedono... Io contesto la metodologia, qui non è nessuno pazzo, il problema è che quando si fa un certo tipo di politica e c'è l'accanimento giustizialista, bisognerebbe anche discernere tra reati e reati, e soprattutto bisognerebbe anche comprendere che chi incappa, come è successo a me e a 13 miei onestissimi e trasparenti colleghi, impegnati solo nell'esclusivo interesse della città, di avere una disavventura del genere, e allora soprattutto con una condanna in primo grado, non possiamo essere sbattuti in prima pagina, sui blog, come dei mostri. Io ripeto, quello che ho fatto lo rifarei altre 100 volte, esprimere un parere favorevole su un atto deliberativo che aveva i pareri di regolarità tecnica e contabile. Anche la signora Botta, se un giorno glielo auguro, dovesse diventare deputato o assessore, rischia, e si trovasse nella mia condizione, cioè quella di vedersi passare davanti degli atti deliberativi, ma bisogna anche studiare l'atto deliberativo per capire è chiaro, questo lei dice pareri favorevoli, ecco, lei dice rischia di incappare in un problema in prima pagina come un mostro, quando tu non hai fatto assolutamente niente di male, perché io, che sono anche avvocato penalista, rifarei altre 100 volte quello che ho fatto, perché mi era stato assicurato dagli uffici finanziari che era tutto buono, che era tutto regolare, c'erano dei pareri favorevoli, e sentirsi trattato come un mostro e paragonato a chi invece in politica della politica ha approfittato, con la politica ha rubato, e allora guardi. Ma questo è chiaro, Arena, lei dice non voglio essere drammatica dal punto di vista personale, umano, e soprattutto è criminale fare politica in questo modo. Posso capire anche, diciamo, il disagio di dire: ma come, io ho fatto un atto giudicato da tutti, un atto giusto, poi mi ritrovo con questi problemi giudiziari, per questo vengo crocifisso da anni. È una Sicilia depredata, come le sistema. È una Sicilia depredata? È una Sicilia che è straordinaria, si sta togliendo di dosso 40 anni di predazione. Ormai non c'è più il voto di scambio, non ci sono più i piccioli, come dite voi, no? Adesso è finito il futu-futu che Dio perdona tutto. Non c'è più niente. Così Beppe Grillo, com'è che Cateno De Luca, anzi no, facciamolo dire a Valentina Botta, che è il Movimento 5 Stelle, com'è in siciliano, perché io farei una bruttissima figura a quello che dice Beppe Grillo. Tutti che Dio perdona tutti. Cioè che è un modo. Vabbè, allora Cateno De Luca qui che deve dire, che Valentina Botta dice una cosa banale che dicono anche molti ascoltatori. Vorrei chiedere a Cateno De Luca: se io volessi fare il bidello, dovrei avere la fedina penale pulita, cioè nella sua situazione, sua, Cateno De Luca, io non potrei fare, lei non potrebbe. Che è caduta la linea, mannaggia, già prima è caduta, poi adesso lo recuperiamo. Questi cellulari, Valentina Botta, questo è che voi sostenete come Movimento 5 Stelle, però ha sentito lo sfogo di Giuseppe Arena a dire: sono da 30 anni una persona specchiata che ha fatto un atto giudicato giusto con tutti i pareri favorevoli, e io per questo dovrei rinunciare alla mia carriera politica per un procedimento in cui tutti possono incappare, potrebbe incappare anche lei qualora firmasse un atto in regione un domani. Guardi, io comprendo perfettamente, anche perché insomma la psicologa comprende perfettamente la sofferenza e il dolore di una persona che vede a suo avviso, a suo modo, poi chiaramente la giustizia dovrà definire quello che è giusto o che è sbagliato, si dà sempre l'ipotesi di innocenza, no? Ma voglio dire, questa non è una buona, l'impegno politico, la passione, sentivo dire, l'impegno, la grande esperienza che il dottor Arena ha dichiarato di possedere, senz'altro possiederà, senz'altro, può essere spesa attraverso un sostegno, un supporto alla cittadinanza, non necessariamente ricandidandosi come sindaco, ricandidandosi come deputato all'AS, non è necessario, si può spendere anche la propria esperienza stando semplicemente vicino a Dice, ma non è necessario, ma è una sua scelta, voglio dire, non è necessario, rientra allora, nelle scelte opinabili, perché, personali. Ma perché io dovrei... Ho capito perfettamente, ma non è che siccome sulla base di un giudizio di carattere personale una persona può o non può fare delle cose. Esistono delle regole, esiste l'importanza di dare, come dire, la certezza del diritto. Se una persona viola il diritto, suo malgrado, bisogna intanto comprendere se questa come dire, se questa accusa è un'accusa falsa, è un'accusa vera. Quindi la giustizia farà il suo corso, il suo giusto corso. E ripeto, questa corsa disperata a candidarsi, a essere necessariamente il rappresentante dei cittadini, io lo capisco, lo comprendo, lo posso capire dal punto di vista umano, ma bisogna fare un passo indietro necessario e fare l'esempio ai cittadini. Io non dico delle cose banali, io dico delle cose che qualsiasi cittadino sposerebbe, perché questo tipo di pensiero, vi assicuro, questo è uno... io che mi sono fatto il giro dei territori, lo sento. Ma questo infatti questo è uno dei motivi per i quali venite accreditati in una percentuale molto alta. Cateno De Luca, l'abbiamo recuperato? Eccoci qua, De Luca. Cioè, sì. Eccoci, allora era caduta la linea. Valentina Botta del Movimento 5 Stelle, rifaccio la domanda, dice: in una sua situazione, nella sua situazione, uno non potrebbe fare il bidello perché gli chiedono la fedina penale, l'autotrasportatore, tanti posti. È vero, veramente. Beh, sta dicendo che stronzate. Beh, adesso, ma moderi il linguaggio, perché De Luca, lei. Andiamo al dunque. Sì. Tutto quello che è stato sostenuto finora dalla Botta non è vero. Chiunque ha un procedimento penale in corso, fino a quando non c'è la prima sentenza, la seconda, la Cassazione, può fare tutto, tranne che ci siano reati di mafia e reati contro la pubblica amministrazione. Qua si stanno inventando un codice penale tutto proprio, per un motivo molto semplice, perché questi candidati, come li stiamo definendo noi in Sicilia, sono pupi nelle mani del nuovo puparo genovese, perché non sanno i problemi della Sicilia, che sarebbe Beppe Grillo. I problemi della Sicilia, vengono in Sicilia, raccontano barzellette e da poi dico anche qua, qual è il ma magari Beppe perché Grillo, ma i candidati sono tutti siciliani. Mi faccia completare, sì. Io ho fatto battaglie contro i sistemi dal 2006, quindi mi candido, ho titolo per candidarmi, poi c'è il popolo siciliano, non capisco perché si pongono questo problema, vogliono fare un codice penale apposito, vincono le elezioni nazionali, modificheranno il codice penale, il codice di procedura penale, lo faranno prevedendo la ghigliottina per chiunque già viene toccato e stravolgendo quelli che sono i principi costituzionali, e si va avanti. Noi stiamo rispettando le leggi. Finché questo è così, è un tentativo, populista, di stravolgere invece norme che non esistono. Ma non crede, scusi De Luca, non crede che invece i cittadini, non credo che De Luca, non crede che invece i cittadini chiedano un pochino più di pulizia? Indagato, non lo votano. Ma se i cittadini vogliono votare un indagato perché ha dimostrato che sa fare politica, è un buon amministratore, che è incappato anche poi in vicende che negli anni purtroppo si rivelano inutili, false e pretestuose, ma perché i cittadini devono essere bombardati da falsi segnali, false notizie, quando nessuno di noi, né io, né Arena, né altri, abbiamo nascosto i procedimenti penali che abbiamo? E allora o ci bocceranno i siciliani, oppure va bene, affideranno la loro fiducia a noi. Non capisco perché invece questi grillini non parlano dei veri problemi della Sicilia, che non conoscono, perché non li conoscono. Va bene. Presidente, candidato presidente alla regione, ai confronti non è mai venuto, non l'abbiamo mai sentito parlare dei debiti della regione, dello spazio, delle soluzioni, mai, ma neanche Grillo ha mai detto. Ah, ma è chiaro, ma poi De Luca, io mi devo fermare, poi domenica come al solito saranno gli elettori democraticamente che sceglieranno. Ringrazio Cateno De Luca, Valentina Botta del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Arena, tutti e tre candidati alla regione Sicilia. Ci fermiamo ringraziando Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia. Abbiamo la segreteria telefonica, prendete carta e penna, ascoltate e a domani. Volete dire la vostra? 02 4652 4492.